Il contadino con le lunghe mani sapeva tutta l'ansia mia, ma egli non rivelava il suo vero nome da incantatore. Io lo fuggivo per valli e terreni oscuri, ma egli sapeva il nome mio.